Immagino che ogni genitore ritenga normale aiutare il proprio figlio a studiare le lezioni e io non faccio certo eccezione. Giorni fa mio figlio era alle prese con la preistoria che si insegna nelle odierne scuole elementari e io, cercando di essere all'altezza del mio ruolo di padre e della fama di persona colta che godo almeno presso di lui, mi sono offerto di aiutarlo a capire quei vaghi accenni all'evoluzione della specie che nei programmi di terza elementare vengono presentati come certezza storica. Ora, che l'evoluzione della specie sia una teoria scientifica è arcinoto fin dai tempi di Darwin che l'ha elaborata e presentata come tale, ma sebbene tra teoria scientifica e certezza storica vi sia un abisso, non penso sia il caso di gridare allo scandalo, perché tutto sommato quella dell'evoluzione è l'unica teoria scientifica che abbiamo in proposito, e lo spiegarla come se fosse storia probabilmente ne rende più agevole la comprensione da parte degli alunni. Scusate. I problemi sono cominciati quando, leggendo il testo sul suo sussidiario, siamo giunti ad un passaggio che diceva: l'uomo ha sempre dovuto adattarsi alle diverse condizioni di vita offerte dall'ambiente in cui si è trovato a vivere e con i suoi interventi ha modificato l'ambiente adattandolo alle proprie necessità. A questo punto mio figlio si è fermato e mi ha detto candidamente che non riusciva a capire. E io, anch'io ho avuto le mie difficoltà, perché adattarsi ad un ambiente significa modificare le proprie caratteristiche per adeguarle a quelle di un ambiente che deve necessariamente essere costante. Seguendo Darwin, se l'umanità si adatta a dormire all'aperto su una lastra di pietra, in capo a qualche migliaio di generazioni si ritroverà coperta di un folto pelo e con vistosi cuscinetti di grasso per rendere la notte più accettabile. E magari si troverà anche un odore repellente per scoraggiare i predatori. Ma se ad essere modificata la lastra di pietra, che so, riparandola con una costruzione, coprendola con un materasso, non si capisce bene in base a quale stimolo l'umanità dovrebbe modificare la sua struttura. In effetti, se pigliamo ad esempio quella parte infinitesimale dell'evoluzione umana che conosciamo storicamente, appare evidente che le caratteristiche fisiche dell'uomo moderno sono tanto inferiori a quelle dell'uomo primitivo quanto superiore è il controllo che esso esercita sull'ambiente. E siamo ormai al punto in cui la preoccupazione per il deterioramento dell'ambiente dovuto all'intervento dell'uomo ha un posto stabile in ogni programma scolastico e politico. Il problema, in fondo, è che l'uomo preistorico non aveva coscienza delle conseguenze dei suoi interventi sull'ambiente. E il volergli attribuire una coscienza, sia pure di riflesso, conduce inevitabilmente a demolire la teoria evoluzionista, considerando, secondo la terminologia di Aristotele, uomo in potenza il preistorico ed in atto il moderno. In ogni caso, l'autore di quelle pagine ha tutto il mio rispetto. In fondo, ci vuole del coraggio per presentare come storia dell'evoluzione umana il decadimento fisico e il depauperamento ambientale. Speriamo che di coraggio ne abbiano anche gli alunni.